Bella regà, comincia il cammino del Gigi D'Agostino, giovedì 30 novembre 2006, Sant'Andrea. Qui si alzata la marea. Chiama un po' il bagnino. Ah bella, prima mi sento D'Agostino. Ciao, sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Si sente? La noia e incapacità di godere. Roberto Gervaso. Il cammino di Gigi D'Agostino. Afficcia un po' sta musica. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Gigi D'Agostino, musical, mental, un DJ con le palle. Questo sabato 2 dicembre Gigi D'Agostino suona in Lombardia, a Capriolo, provincia di Brescia. Discoteca La Fattoria e la musica te porta via. Mixata, va. Ciao, sono Gigi D'Agostino. Tamarro bizzarro. Vado. Gigi, la tua musica mi prende. Solita, una cubista brasiliana. La dignità dell'artista sta nel suo dover tenere vivo il senso di meraviglia nel mondo. Gilbert Kate Chesterton. Dai un po'. Una buona occasione per diventare tamarri. È un peccato il non fare niente col pretesto che non possiamo fare tutto. Winston Churchill. Lasciati andare, se per te la prima volta, lasciati andare. Capito come? Lasciati andare. capito come. Il 30 novembre 1508 nasce Andrea Palladio, architetto italiano. È il cammino del Gigi D'Agostino. Capito come? Vuoi cassa e melodia? Ovvio. Giovedì 7 dicembre, Gigi D'Agostino suona Pavia. Discoteca Metropolitan. Discoteca Metropolitan. A Casteggio, in Lombardia, dalle ore 22. Lascia che sia. Mi stai appena di zau? Il 30 novembre del 1954, a Sylacauga, Alabama, un meteorite di quasi 4 kg, dopo aver perforato il tetto dell'abitazione, entra nel salotto di Elizabeth Hodges, colpendola dopo aver rimbalzato sulla radio. Oh, ma che stava ascoltando M2O? Questo è l'unico caso accertato di una persona colpita da un oggetto extraterrestre. Roba de meteore, frate. Cambia sto disco, va. A olio. Au. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una musica infinita che racconta la vita. Sai a capì. Excuse me, Mr. DJ. I love music. Gigi, se non leggi il mio messaggino, Federica mica mo dar bacino. Non va bene. Mirko da Livorno. Il cammino di Gigi D'Agostino è una grande famiglia. Che meraviglia. Il tuo cuore si trova là dove si trova il tuo tesoro. È necessario che il tuo tesoro sia ritrovato affinché tutto ciò che hai scoperto durante il tuo cammino possa avere un significato. Paulo Coelho. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Bella regà, ste mani al cielo. Il cammino di Gigi D'Agostino, mica non scioline. Roba coatta, sì, capito come? È come se tutto fosse strano, aria. No, è come se tutto fosse strano, aria. Sulle mani. Il cammino di Gigi D'Agostino. Il tuo antidepresso. Rimani connesso. È come se tutto fosse strano, aria, sulle mani. È come se tutto fosse strano, aria, sulle mani. Per Gigi D'Agostino, aria, per Gigi D'Agostino, sulle mani. Per Gigi D'Agostino, aria, per Gigi D'Agostino, sulle mani. Per Gigi D'Agostino, D'Agostino, aria, per Gigi D'Agostino, sulle mani. D'Agostino. Sì. Sì.

riesco solo a non dire niente. Quando vorrei dirti tutto quello che siamo, da quando ci sfioriamo. Non so cosa vuol dire amore. Forse vuol dire sentirsi vivi. Forse vuol capirlo. Forse vuol capirlo. Forse può capirlo e spiegarlo solo chi non ha amato. Perché chi ama non lo sa spiegare. Per me, amore vuol dire aver incontrato te. Forse può capirlo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Un piccolo paese fuori dal mondo. Per me, amore vuol dire aver incontrato te. Voglio difendermi da tutto questo. Tutto questo. Tutto questo. Tutto questo. Mi lascerò travolgere anche dalla sensazione che mi devasterà il giorno che tu te ne andrai. Riesci ad amare solo chi non vuole difendersi dall'amore. Forse non capirlo. Per me amore vuol dire aver incontrato te. Guardo di là, ma vengo di qua. È il momento della pubblicità. Sali in sella, è suonata la campanella. Oh, partimo o no? Dai un po'. Gigi D'Agostino è lento, violento. D'Agostino è lento, violento. Gigi D'Agostino è lento, violento. Gigi D'Agostino è lento, violento. Gigi D'Agostino, la nouvelle Martel. È bello, è bello. Roba dei barattoletti. Roba dei barattoletti. Roba dei barattoletti. G, parti. Tutte le arti contribuiscono all'arte più grande di tutte, quella di vivere. Bertolt Brecht. Se volete scrivermi 333 64 67 662. Gigi D'Agostino è lento, violento e viceversa. E viceversa. Agli altri il palo è la traversa. Passo ya molle.

che unisce. Da Coltino un altro modo di fare musica. Giovedì 7 dicembre, Gigi D'Agostino suona a Pavia, discoteca Metropolitan, a Casteggio, in Lombardia. Dalle ore 22 entri in pista e vai più via. Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che pesta. Musica, musica, musica, musica, musica, musica, musica, musica, musica, musica, musica, musica. Signore e signori, in console c'è Gigi D'Agostino. È finito, regà. Se parte, va. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Vai la giostra. Gigi D'Agostino, musical mental. Un DJ con le palle. Eh sì, eh. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una fragranza per l'ambiente. L'anima libera è rara. Ma quando la vedi, la riconosci, soprattutto perché provi un senso di benessere quando le sei vicino. Charles Bukowski.

1955 nasce Billy Idol, musicista britannico. Marco da Pesaro. Vorrei regalare un momento di emozione a mia madre Angela. Per favore, infiniti nomi. Che ti serve mai? Tormentarti per capire il mondo. Farti soffiare. Il cammino tra qualche minuto si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. In vita, beh, forse quel giorno era impazzita. più, qual è il mio meglio, se non si scioglie questo groviglio. La Bibbia dice di amare il nostro prossimo e di amare i nostri nemici. Probabilmente perché di solito si tratta delle stesse persone. Gilbert Keith Chesterton. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica ben detta. Gigi D'Agostino, un piccolo paese fuori dal mondo. Gigi D'Agostino, questo sabato suona a Lombardia, a Capriolo, vicino Brescia, la discoteca La Fattoria. Dalle ore 22, lascia che sia. Novembre del 1979, i Pink Floyd pubblicano la loro opera rock The Wall. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Why am I leading the lonely life? Can you feel the way I'm so tired? Do you need me to say goodbye? Don't forget about me tonight, 'cause my heart is not going to die. Just a love I could not deny. You will listen to me forever. di Gigi D'Agostino. Mi sono appena fidanzato. Vorrei dedicare l'amour toujours alla mia ragazza Erika, Massimiliano da Padova. Vorrei dedicare una vostra canzone a mia sorella Rosetta e dirle che la amo. I still believe in your eyes. There is no choice, I belong to your life. Because I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away. And I'll fly with you. Ciao Gigi, voglio dedicare l'amour toujours a tutta la squadra di canaglie che verrà al Metropolitan a camminare con te. Grazie per gli auguri, raga. Mino da Pavia. L'amore è melodia, l'amore è sinfonia, l'amore è per sempre. Gigi, facci sognare ancora con l'amour toujours. Un bacio, Helen e Ile. Mosco da Subiaco. Potresti dedicarmi l'amour toujours durante il cammino? Sono DJ Christian. Dedico l'amour toujours a Rosy. Ma Gigi, quando vieni in Toscana a suonare? Oh, mica siamo qui a snocciolare. Dedico l'amour toujours ai miei due angioletti, Matteo e Ludovica. Ciao Gigi, sono Andrea da Como. Puoi dedicare l'amour toujours a Fausta di Caserta? Grazie. We'll be right back. la locomotiva Tamarra e stiamo diffondendo la tua musica in tutta Collegno. Facci ascoltare la Murtujur. Ci sentiamo domani, grazie a tutti.